Hai perso la festa del secolo perché avevi sonno. Quando l'Italia ha vinto i mondiali tu eri in bagno. Hai saputo che c'era il Black Friday solo quando è finito. Ma questo non te lo puoi perdere. Il momento è ora. Solo a gennaio Nissan Juke è tuo da 17.900 euro con eco incentivi più eco bonus rottamazione. Sbrigati! Info su nissan.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Entriamo così in maniera particolarmente brusca prima della sigla. Intanto già salutiamo, interrompiamo questo spettacolo, capolavoro della musica moderna, fantastica e fantasmagorica, perché prima della sigla diciamo un fuori scaletta, non l'avevamo visto, non l'avevamo considerato, però sapete che oggi c'è stato un evento, magari dopo ne parliamo, e allora facciamo un piccolo omaggio così a modo nostro, Michela. Sì, un piccolo omaggio al nostro mito che oggi è andato a trovare il direttore dei direttori. Esatto, il direttore dei direttori a dire che il paradiso è una cagata pazzesca. Quindi ci ascoltiamo questa cosa, perché è l'unica cosa che si può fare in radio. Avremmo potuto fare come hanno fatto tanti e mettere spezzoni o roba del genere, ma vabbè, facciamo finta che sia musica e ci ascoltiamo questa cosa e poi andiamo con la sigla. Fantozzi ragioni rugo. Matricola 1001 Barabis. Dell'ufficio sinistri. Lei venghi qua. Sì, signor mega direttore. No, va di là. E si muovi. Ah, hanno messo la parete a vetri. Sveglia e caffè, barba e bidet. Presto che perdo il tram. Se il cartellino non timbrerò. Fantozzi! No! Crocefissi in sala mensa, no, mi vergogno! Ma che umiliazione pubblica! E poi mi si intrecciano i diti! La 1003, frigo e buffet, l'elettro dei frappè, più la moquette, poi la roulotte, le rate, 16 kg e 700 ricambiali. Sì, direttore, conte ingegner, sire sua santità. In ginocchio! Faccia di me quello che vuol. Aia! Sottoscrizione regalo al mega presidente galattico. Ma che gli facciamo quest'anno? Una bella poltrona in pelle umana. Bella, bella idea, ma non sempre la mia. Ma perché sempre la mia? Di giorno qui, sera TV, sempre sarà così. Indennità, anzianità. Che noia! Ma oggi cos'è, lunedì o venerdì? Giorno verrà, che lo farà, Fantozzi volerà. Ragioniere! Monti e città, l'immensità. Svegliarsi! Una craniata pazzesca. Ma perché Fantozzi fa solo tragiche rime? Bozzi, cozzi, singhiozzi. No, direttore, non mi strozzi. Basta, se no io. Fantozzi fa anche rima con abbozzi. È giusto, come strozza bene lei. We'll be right back. E carissimi amici di Runtime Radio, siamo tornati io, Simone Pizzi e Michele De Paola. Ciao a tutti, non mi avete persa. Anche se qualcuno ha supposto che avrebbe potuto succedere qualcosa del genere, perché in effetti Michele da tanto che non ti sentiamo. Beh, diciamo che gli ultimi 7 mesi sono stati una tragedia, una spremuta di sangue. Sì. No, vabbè, lavoro, tanto lavoro che ha portato Michela chiaramente lontano dalle console, dai microfoni di Runtime Radio, che in realtà poi tutti quanti l'attendono, ma soprattutto vari eventi, insomma, di epocali e bibliche disgrazie, insomma, tipo stavamo quasi al gatto numero 2, diciamo così. Sì, diciamo che abbiamo lavorato, ma qualcun altro si godrà qualche nostro frutto. Qualche cosa, vabbè, d'altronde il mondo è fatto di briganti, Michele, non ci possiamo fare niente, questa è una legge di natura, quindi sapete, insomma, che abbiamo detto su Facebook, chi ci segue sapete che durante la 2 notti fa sono entrati nella nostra casa e non sono venuti neanche a narcotizzarci, diciamo. Non è servito. Non ce n'era bisogno, diciamo così, e si sono inchiappettati, insomma, un po' di soldi, carte di credito e cose varie. Quindi, insomma, alla fine magari un po' del mese di lavoro che avevamo faticosamente guadagnato, insomma, se n'è andato un po' così, ma chi se ne frega, alla fine noi, insomma, ci tiriamo sempre su di morale. Mi domandavano, Michela, come mai appunto come mai tanto che non ti si sente in radio, ma soprattutto se ti prometti di ritornare. Sì, torno e torno con Mono, perché io non ho lasciato il progetto Mono, è molto impegnativo, quindi devo trovare comunque un sistema per preparare le puntate prima, molto prima, e registrarne magari molte. Perché è un progetto monolitico. È un progetto monolitico, oppure potrei tornare con una versione live di Mono, però diventa... diventa una bella sfida, perché poi dovrei avere molti ascoltatori che mi danno là, insomma. Vediamo un attimo che cosa succede. Sì. Dunque, cari ascoltatori di Runtime Radio, questa, come abbiamo detto, è Everything, la quarta puntata. Avremmo dovuto farne almeno una al mese, in realtà non ci siamo riusciti, come abbiamo detto, e doveva essere anche la trasmissione un mondo di pensare, cioè nel senso, dove cercavamo di raccontare un po' il mondo che ci circonda, ma poi alla fine è diventata la trasmissione dei cazzi nostri ma soprattutto di quelli di Michela, perché dopo il famoso, epico e fantasmagorico viaggio in Irlanda, adesso se siamo non qui. L'avete ascoltato la puntata, andatela a scaricare, sì. Non so per quale ragione, ma andatela a scaricare, ne vale la pena. E questa volta invece racconteremo di un altro epico viaggio, epico perché qui si assume anche la connotazione epica per una regione anche climatica, insomma, di impegno proprio fisico, fisiologico anche, insomma, sì, perché... anche poi c'è da notare che parliamo sempre di viaggi in cui tu non ci sei, infatti. E che me ne guardo anche il bene dall'esserci. Quindi va bene. Quindi di cosa parliamo in questa puntata? Parliamo del mega concerto. Mega, wow, di mega. Di Vasco Rossi? Assolutamente no. No, è quella la mega concerto. No. È il tour europeo più bello degli ultimi 30 anni, sicuramente. E il bellissimo concerto di Eddie Vedder a Firenze, e All Alone, senza Pearl Jam, senza band, e lui un ukulele, una chitarra, e mi sembra che ci fosse anche un mandolino. Ma sì, mettiamo un mandolino, è un po' sole, mandolino, pizza, fa sempre effetto. Quindi a questo punto io partirei col primo brano. Col primo brano, e poi ci racconti, perché io non so un cazzo di tutta. Sì, faccio un preambolo. Il primo brano è una dedica. Ecco, spiegacela sta canzone, perché veramente... Spalla, cioè il cantante Spalla, che ha sostituito suo malgrado i Cranberries, che dovevano essere presenti al festival insieme al Eddie Vedder, invece si sono dati. E questo poveraccio di Samuel è arrivato, non ha cantato. Ma chi è una quasi soprattutto? È l'ex cantante dei Subsonica. Ah, ok. non ha cantato neanche una canzone dei Subsonica. E quindi bene. La gente dopo un po' l'abbiamo vista morire in diretta, cioè tipo mazza che coglioni questo. Però è stato ironico, e quando è salito sul palco ha detto anche lui: mamma mia che sfiga, a chi io mi ero comprato il biglietto per vedere i Cranberry. Beh certo, il tappabuchi non fa piacere a nessuno, no. Quindi vabbè, ci sentiamo questa canzone inspiegabile, però ci sentiamo questa canzone di Samuel e di Jovanotti, no, inspiegabile, anche piuttosto conosciuta e anche molto carina. Che bella canzone, mi sentirete dire spessissimo durante questa puntata. È un omaggio alla fine... ai nostri vent'anni. Ma quali vent'anni? Concerti elettronici come questi non ci pesavano neanche un minuto. Vabbè, ma anche perché ci avevi vent'anni di meno e io almeno una sessantina di chili di meno, quindi chiaramente non ci pesavano particolarmente. No. Bene, dunque, allora, come spesso capita, mia moglie a un certo punto arriva e dice: prenotato il biglietto, però se vuoi non ci vado. Vabbè, io... che è una delle cose più ridicole che un uomo possa sentire, insomma. Ma, vabbè, poi... ma è normale, no? Scusa, che cosa dico? Beh, se poi non ci vado, poi ci vado lo stesso, però. Però non ci vado se vuoi. E fu così che continuarono per 30 anni questa storia. Inutile, ma tra l'altro. Diciamo perché... che la paura di Simone era comprensibile. Cioè, al di là del fatto, mando vai che non c'hai più 20 anni. E la preoccupazione principale è stata: ma t'ammazzano. Ma no, non t'ammazzano. In realtà non era neanche il problema del terrorismo. Mi ha preoccupato più quello che è successo a Torino, sì, durante la finale di Champions League. Cioè un fraintendimento di qualsiasi genere, il panico generale quando magari un posto è pieno e dico cioè, può succedere qualsiasi cosa. E non ce la vedo mia moglie scavalcare agilmente i muri in no, questa, non c'erano muri in questa fase della sua vita. Il però, festival insomma, si è svolto tutto in una arena, un ex ippodromo, e quindi gli spazi erano veramente immensi e era veramente organizzato tutto molto bene. Devo fare i complimenti al comune di Firenze e credo a Virgin Radio, perché sono loro che hanno organizzato tutto il concerto. E era veramente una festa, era un festival che ormai durava da una settimana circa, che aveva visto già cantare i Radiohead, e la sera prima i Surfer Cadavers, eh? I Surfer Cadavers, i Surfer Cadavers, gli Urina Deretana. Ma scusa, non sai che sono i Radiohead? Sì, sì, no, vabbè, però insomma, mette i nomi a casaccio. Quella è la canzone più famosa che, dei Radiohead. Che infatti, tra l'altro, era un po' di tempo che sentivo tutti questi gli amici, che ne so, anche il nostro caro amico Diego del Blue Pub, che noi sponsorizziamo sempre a casaccio senza ricevere mai denaro, però non fa niente, che diceva no, io vado, sì, vado no, a Firenze, c'è il concerto, un altro vado a Firenze, c'è il concerto, un altro vado a Firenze. Allora praticamente tutte le band del mondo, sì, sono tutte le band a Firenze, solo a Montelondo non fanno un cazzo, insomma. A Montelondo non fanno un cazzo per niente, a Roma qualcosa fanno, però ultimamente, sai, vabbè, lasciamo stare questi discorsi un po' politici. Troppo politici. E, però a Firenze l'idea è stata grandiosa, perché diciamo che è cominciata lentamente con i Radiohead, poi qualche giorno di pausa, poi gli Aerosmith, e poi Eddie Vedder, che ha suonato con Glenn Hansard, e Glenn Hansard ha suonato da solista e cantato da solista. Sarebbero dovute esserci anche i Gran Berries e poi il gran finale, proprio il botto, che se ci avessi avuto 10 Vasco anni Rossi di meno, no. Ma chi se lo cula Vasco Rossi? Scusate, mo... 4 milioni di utenze. Non voglio offendere nessuno, ma noi proprio... Vabbè, il grande finale? Il grande finale dei System of a Down. Vabbè. Là, se ci avessi avuto un po' dei sordi e... Certo, 15 anni vista la scaletta meno... musicale che hai messo in questa puntata e tante altre puntate, non ci crede più nessuno che ti piacciono i System of Ma Down. Io ho fatto una puntata di Mono dedicata ai System of Down. Non lo so, ma è stata una cosa così commerciale. Ma poi che me frega, ma mica la gente ci deve credere. Io ci credo. Io lo so. Tu lo sai. Io lo so. Mi piace questa cosa che tu lo sai. E quindi veramente grande organizzazione. Ecco, ti ho alzato un po' il volume perché mi sa che eri un Grazie. Po' basso. E niente, io direi intanto, prima di entrare nel vivo dell'atmosfera stupenda che abbiamo vissuto tutti noi che eravamo a Firenze, sì, direi di iniziare. Sì. Di iniziare, no, vabbè, non è proprio la canzone perché iniziale, perché abbiamo già però... iniziato da un pezzo, diciamo. Sì, infatti, questa canzone è la canzone che Eddie Vedder canta alla fine di ogni concerto di questo tour. È una cover di Neil Young, e come poi vedremo nel concerto ci sono state molte cover bellissime, e è un bel omaggio. È anche un modo per lui, cioè, l'abbiamo interpretata un po' tutti come un modo per non interrompere la festa. Infatti sembrava che non se ne volesse andare più. Ascoltiamo Rockin' in a Free World di Neil Young. Quando invece si sa che a una certa è meglio te ne vai. Naturalmente non posso dire che canzone è merda, perché insomma sarebbe ridicolo e sarebbe poco credibile, perché stiamo parlando insomma di gran pezzo che Michele ha inserito in ambito insomma di una scaletta, una battaglia di culo insomma. No, perché insomma non c'è più il giocatore della volta quando mettevi i propri pezzi, dopo sei diventata malinconica, sei diventata romantica, sa tu palle. Vabbè, sei diventata tu palle. Sei diventata tu palle, sì. Quindi adesso parliamo di cominciamo a parlare di questa avventura. Siete parlati, avete preso la macchina e siete andati. Allora, intanto partiamo dalle intanto cose pratiche. Cominciamo a prendere a cazzotti il microfono. Partiamo dalle cose pratiche. Prima di tutto, non so perché se ci ascoltano, lì? Mi sì. sembra che siano in chat. Lasciami libera di esprimermi. Ok, va bene. Porca esprimi. Miseria. Non so se ci sono in chat, ma voglio ringraziare prima di tutto Maria Pina e Danilo, perché senza di loro non sarebbe stato possibile niente. Cioè, mi sono vissuta un concerto alla stra relax grazie a loro, che abitavano praticamente dietro all'arena di Visarno. Cioè, Danilo e Maria Pina che scroccano i concerti poi a sbafo. Scroccano i concerti a sbafo, perché la sera precedente abbiamo ascoltato tutto il concerto degli Aerosmith da casa sua, da casa loro. E vabbè, io ero quella più felice, diciamo così. Danilo diceva boh, vabbè, e Maria Pina mi seguiva per farmi felice, quindi, perché Maria Pina è un tesoro, e veramente grandiosi. È un tesoro quando sta zitta, perché sennò poi dopo quando parla. Beh, non c'aveva navigatori con cui litigare. Ma quindi... non mi servono i navigatori, anche con i libri litiga, quindi. Però insomma è stato molto bello già l'arrivo. Quando sono arrivata praticamente ho capito che stavamo dove stava il concerto, e non pensavo di non aver mai potuto trovare parcheggio. Poi un angelo si è tipo fermata mezz'ora, ma ha aspettato che girassi tutto l'isolato per ritornare dove stava lei per lasciarmi il suo posto. E non so, non credo che ascolti mai Runtime Radio, ma mai, se tante volte ci ascolti, Angelo, ti devo qualcosa, insomma, una birra te la devo offrire. Ma chi è sto Angelo? È una tipa che praticamente mi ha visto in difficoltà, stava camminando, mi ha detto guarda, se vuoi io sto andando via, solo che la mia macchina sta qua e tu devi fare tutto il giro dell'isolato. Io l'ho guardata. Ah, vabbè, sì, stava gentile, grazie. Gentilissima. Era buona? Era molto carina, molto bella. Mi dispiace, non ho potuto troppo, portare. Vedi, bisogna... Quelle buone, ricordate, mettete da parte, che bisogna presentarle a Marco Gualdi, che Marco Gualdi è esigente. Insomma. Ma io una responsabilità del genere non me la prenderei mai. Vabbè, prima o poi bisognerà, insomma. Perché? No, vabbè, comunque dai, quindi volente, chi ci ha ordinato il dottore? Quindi volente, tu sei partita, anzi il pomeriggio sei partita, hai chiuso l'ufficio, sei partita sì. con la macchina, hai lasciato i tuoi amici nella ho chiuso l'ufficio, ho detto ai clienti scusate, andate a vedere ti vedo. Cioè, è un motivo più che sufficiente, insomma, per perdere del danaro. E quindi hai precaricato i tuoi amici, oppure no, loro erano già allora, andati? Allora, i miei amici si sono fatti due concerti, il concerto degli Aerosmith e che quello tu hai di sentito gratis, che io ho ascoltato gratis. Loro l'hanno fatto sotto il palco praticamente, e no, sotto il palco no, perché vabbè, c'era questa cosa dell'inner circle che non si poteva raccontare, siccome non c'erano tribune o altro, e praticamente se pagavi 20 euro di più stavi sotto il palco, se pagavi 20 euro di meno stavi 20 metri dal palco. È giusto. Se vuoi un privilegio devi pagare. Ma non ho mai visto un privilegio in Prato, insomma, un concerto. Di però... solito dice dovrebbe essere di meno. Eh? Dovrebbe essere meno. Ma oggi si è invertito il mondo, lo sai, no? Che i giovani sì. pensano che è più figo fare le cose stupide invece di fare cose fighe. Ma non c'erano giovani. C'erano i giovani. Non vabbè. C'erano giovani. Cioè, se per giovani intendi persone della mia parte, età, no? Allora ce n'erano tantissimi. Ma veramente, beh, cioè, tu dici c'era sempre una se generazione. Sono giovane, io sono giovane. Quindi ci stavano giovani, sono quelli dell'età sì, tua. Quelli dell'età mia, i giovani della mia età. Vabbè, comunque tu, loro sono andati quindi per cazzi loro, tu invece sei partita con Comodo, sei andata a Maria Pina e Danilo, che sono i nostri ascoltatori che hanno fondato il Michelas de Paulas Fan Clubs. E poi il giorno dopo, quando tu sei arrivata, ricordiamo anche questa cosa, che ti hanno preparato la doppia frittata mortale. Doppia frittata, patate e cipolla e frittata di pasta. Che è buonissima, patate e cipolla. Buonissima. Ci mette la mano sul fuoco. Facciamo ancora tanti auguri a Maria Pina. E poi praticamente ho potuto dormire, riposare, ci siamo goduti la mattinata. Dopodiché in tarda mattinata ho raggiunto, anzi i miei amici mi hanno raggiunto. Amici. I miei storici amici Enrico e Cristina, che saluto, mi hanno raggiunto e siamo andati a organizzarci per il pranzo. E poi ci siamo appostati alle cascine, al parco adiacente l'arena, e lì abbiamo incontrato un sacco di gente, colleghe dell'università, Luana, che saluto, con il suo compagno Marco Ottaviani, storico amico di entrambi. Insomma, un sacco di gente che era lì. Poi c'era la mia amica Marzia, che non ho incontrato perché lei ha scelto di stare nell'inner circle prima di tutto e di andare sotto il palco alle 2 di pomeriggio. Quindi ho detto che, appunto, puntualizziamo questa cosa, che non solo questo evento era a Firenze, che è notoriamente la città più calda del mondo, ma più umida e più calda del mondo, nei giorni in cui è arrivato il caldo torrido Caronte, esatto, che addirittura si diceva che a Ferrara facessero 46 gradi, una cosa del genere. Sì. Quindi vabbè, è stata una follia, insomma, diciamocelo. Vabbè, ma lei, a parte fisicamente, è molto più prestante di noi, e soprattutto lei c'era partita, lei ha detto io lo devo vedere in faccia, chiuso Firenze, è partita per Taormina, insomma, si è fatte tutte. Un po' triste sta cosa, ma no, non è triste, è una... anche se io l'ho fatto pure per De Gregori, una cosa del genere. Allora. Ho visto Roma e la notte sono partito per Bologna con un camper con il mio caro vecchio amico Cristian Spaccapaniccia. Quanti bei tempi. E lì ci hanno rubato, penso, ci hanno rubato dentro il camper. Sì. Le nostre poesie, le nostre canzoni che avevamo scritto. Le nostre poesie. Esatto. Ah. Sti stronzi. E quindi vabbè, stavate a sentire il concerto di questo qua che facciamo sentire adesso. Sì, allora intanto vi do un anticipo della magia che abbiamo vissuto. Stavamo ascoltando, vediamo l'ora noi. Sì, stavamo ascoltando proprio Eddie Vedder, e lui ha cantato molte canzoni di Pearl Jam, ma anche molte cover e canzoni di lui da solo solista. E io come canzone da solista ho scelto Society. Society, crazy indeed. without me. Less is more, but if less is more, how you keep in score? It means for every point you make, your level drops. Kinda like you're starting from the top, and you can't do that. Society, you're crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Society, have mercy on me. I hope you're not angry if I disagree. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely. E la cosa brutta è che mentre che canta la canzone il buon Eddie, c'è Michela che gli fa eco, che fa eco più eco, perché c'è anche un po' di latenza del microfono, e quindi diventa una cosa terrificante. Sta qui in radio a fare una trasmissione musicale con queste prerogative, insomma, vabbè. Bello, bello, bello, bello, bravo ragazzi, bravo. Purtroppo chi non c'è stato si è perso veramente un momento storico. Mi dispiace chi dirlo. Non salta Vasco Rossi è, dicevano. Infatti saltiamo tutti. Saltiamo tutti. E io penso di essere stata parte della storia, perché veramente sì. E come si è letto in molti articoli, cioè la particolarità di questo concerto è che Eddie Vedder è riuscito a radunare la folla olimpionica, che comunque potrebbe esserci a un concerto di Pearl Jam ad esempio, e cantando da solo in un one man show, suonando senza l'aiuto di nessuno e catturando l'attenzione di tutti. Poi bellissimo è stato l'inizio, perché lui ha voluto leggere una frase in italiano, e a parte che era ubriachissimo, cioè com'era? Abbiamo ubriachissimo. Ubriachissimo. Era ubriachissimo. E era veramente stonato, perché poverino ha dovuto attendere, tipo c'era la festa di San Giovanni a Firenze, è sentitissima, e il comune di Firenze aveva imposto che non potesse suonare nessuno durante i fuochi d'artificio. Questa è proprio l'arroganza di Firenze, cioè del fiorentino, l'arroganza, cioè vabbè, ma noi non fa fermare il mondo più, perché loro hanno questa loro cosa provinciale, vabbè, bella basta, figura, abbiamo capito, no. E non ci adesso scaglio contro il fiorentino. Non ci e poi siamo, ricordatevi sempre una cosa, che i toscani vengono spacciati tutti per iper simpatici, ma penso che insieme al parigino il fiorentino è una delle persone più non ma dico facciamoci altro. amici in tutta Italia, perché perché non continuare ad avere amici ovunque, perché gli amici non servono a niente. Comunque ha voluto raccontare questa, diciamo così, questo inizio, e ci ha detto: è il primo show da solo in Italia e anche il più grande che abbia mai fatto. questo succede solo in Italia, ha detto. Sì. E che ne sa lui che insomma, è il primo, perché, è il primo show che fa in Italia, che cazzo ne sa, perché quello? Dei tour che ha fatto in tutta Europa, e questo qua è stato il più numeroso, cioè quello dove sono venuti più persone, quindi veramente è stato un gran successo. Tanto ti salutano dalla chat. Sì, dicono, ciao Cristiano, ti salutano, saluto soprattutto a Dia, ciao Cristiano, baci baci. Vabbè, quindi praticamente, però lui non sapeva che metà del pubblico erano americani. Metà del pubblico non lo so, ma gran parte del pubblico, abbiamo conosciuto due ragazzi americani, due fratelli, che forse per fare i fighi o forse per davvero erano stati in Messico e erano stati rapiti, sì, e arrestati, beh, dai poliziotti. Sì, sì, e sì. E la mia amica Cristina che... perché gli americani si pensano che stiamo ancora al tempo della seconda guerra mondiale, quindi... Eravamo rapiti da questo racconto particolare, insomma, che ci sembrava verosimile. Da sta manica di cazzate, insomma. Ogni tanto volava qualche profumo particolare. Scureggia. No. E comunque il concerto, torniamo al concerto, perché molti pezzi dei Pearl Jam, come ho già detto, ma anche molte cover, e una tra le tante è stata quella di Imagine. Tra l'altro Eddie Vedder ha raccontato che sta preparando una canzone con Yoko Ono su un testo scritto da John Lennon. E diciamo così, è stato molto interessante ascoltare anche queste cover, perché ha cantato canzoni di Cat Stevens, di Neil Young, appunto, come abbiamo... Posso dire che Yoko Ono, secondo me, è l'impersonificazione del demonio. C'è qualcosa di demoniaco con quella donna. No, io la trovo... Che sopravvive solo... a tutti, ancora sta lì, cioè... No, io la trovo solo molto furba, molto intelligente. E dal punto di vista artistico non saprei esprimermi, perché lei non è un'artista, secondo me è più una produttrice. Però fa quel che può, quindi o fa quel che l'occasione le dà, insomma, quindi ci sa fare. E soprattutto la cover di Imagine, seppure comunque una cover di Imagine, quindi una canzone stracantata, che a volte può anche un po' annoiare. Se vuoi te la canto. No, grazie. È stata riuscitissima. E riuscitissima è stata soprattutto la stella cadente, che è apparsa dopo Imagine. Diciamo che è di vedere Dio, c'è ragione Cristiano. È arrivato un altro. Diciamo che poi tutti hanno cominciato a dire: è vera, non è vera, è un fuoco d'artificio. E neanche nei giornali si capisce bene se questa stella cadente sia vera o no. Io credo che non sia vera. Io credo sia, però... ma suggestione di massa. Però era perfetta, era bellissima. O l'attacco ISIS fallito, perché poteva anche essere quello. Era un atto d'amore di Eddie verso tutti noi, verso l'ISIS. Ma parliamo, facciamo un piccolo preambolo, così ci avviciniamo all'altra canzone. La spalla, il grande amico di Eddie Vedder, il grande regalo che Eddie Vedder ha fatto a me. Ha portato Glenn Hansard. A te poi, dopo la specificata. Ah, faccio questo regalo a Michaela. A me, perché io adoro Glenn Hansard, e quando ho visto sulla line Cranberries Glenn Hansard e Eddie Vedder, ho detto: no, io ci devo andare, non è possibile, dobbiamo fare questo viaggio. E così è stato, e è stato bello anche perché l'ho fatto con la mia amica, che mi ha fatto conoscere Glenn Hansard, e insieme, insomma, abbiamo amato molto questo show prima di Eddie Vedder. E la prima canzone che ha cantato Glenn Hansard è proprio quella che stiamo per ascoltare, ovvero When Your Mind's Made Up. So, if you ever want something, and I'll be at your door when there's nothing worth running for. When your mind's made up, when your mind's made up, there's no point trying to change it. When your mind's made up, when your mind's made up, there's no point trying to stop it. You see, you're just like everyone. When the ship falls, all you wanna do is run away. All by yourself. When there's fall, there's nothing else. When your mind's made up, when your mind's made up, there's no point trying to change it. When your mind's made up, when your mind's e dunque va bene, il tempo dei regali quindi è finito. Eh no, non è finito. Allora no, volevo dire anche una cosa stupenda, perché Eddie si è innamorato di ma lui è un amico tuo. Eddie è un amico mio. Eddie, mamma, potenzialmente potrebbe essere un amico mio, potrebbe, te lo dico. Si è innamorato di Glenn talmente tanto che la famosissima canzone Falling Slowly, che tutto il mondo conosce, vincitrice anche di un premio Oscar per la Cononna Sorora. Corona Sorora, d'età giapponese, la grotta sonora, la colonna sonora, l'ha cantata lui. Quale colonna sonora? Del film Once, film indipendente diretto appunto da Coronno Sonoro, no, da Glenn Hansard e Marquette Grova. Ok, ma si è innamorato di lui in senso artistico o in senso omosessuale? Artistico. Eddie Vedder c'ha una moglie che è una buona da paura, e è sposato da tipo 30 anni. Se c'ha lui ha buona da paura, scusa. Sì, però rispetto agli altri, insomma, è molto più tradizionalista, se diciamo così. In merito a cosa? Alle mogli. Alle mogli. Anche cioè, se la moglie tradizionale. Dire, io c'ho mio marito qua, m'ucciderà, non so, è un figo da paura. Cioè, porca che miseria. Cioè, non ci stanno fighi così. Cioè, il rock non li produce più. Niente. Cioè, niente. Non c'è cazzo da fa. C'è cazzo. Cioè, morto Eddie Vedder, sono morti tutti i fighi da paura. Bello, sono bei pensieri profondi. Voi all'arte, le canzoni. Il rock and roll, la radio, bella roba. Beh, perché lui con la voce profonda facciamo meglio noi quando andavamo al cinema Volturno a vedere i film porno, Zinne, Culi. È no, la stessa cosa, cioè. Ma no, è lì intensità. Ah, perché voi i maschi siete tutti maiali, capito? Invece, capito, stavo a guardare. Ma io mica te sto a parlare dello spogliarello. Ma è uguale, il concetto è lo stesso. Intensità. Ma quale intensità? Intensità, bellezza e intensità. Intensità, Moana Pozzi pure gli dava giù l'intensità. Ma mica cantava come Eddie Vedder. Cantava, a modo suo cantava. Penso che il buon Danilo mi può dare... Manforte in merito, insomma, giusto? Tutti vogliono vedere la moglie. Non mi ricordo come si chiama, poi ve la linkerò eventualmente. Vi faccio soffrire. Durante il prossimo brano la va, sì, a cercare. No, partiamo con un preambolo, così arriviamo al prossimo preamboli, brano. Tutti preamboli, so. Preamboli, preamboli, la puntata dei preamboli. Esatto. No, diciamo che il concerto è stato bellissimo, come vi ho già detto, e è stato anche molto intenso. Chi è che ha fatto cantare gli uccelli? È Moana Pozzi. Ah, beh, certo. Comunque Vasco non è figo ma come niente Danilo, quindi noi ci asteniamo proprio. No, Danilo dice più figo di Vasco. Eddie, voglia. Beh, vabbè, dai. Eddie, dicevo, abbiamo assistito quest'estate a una morte molto forte che ha colpito molti di noi, soprattutto la generazione delle persone che era presente al concerto e che quindi ha sentito molto viva la passione che ci ha messo Eddie nel cantare Black, perché ha chiaramente dichiarato che la sua era una dedica a un amico che non c'è più, e l'amico che non c'è più è proprio Chris Cornell, che è venuto a mancare all'inizio di quest'estate suicidandosi. Senti, dalla chat mi domandano se non si è capito se a te questo concerto ti è piaciuto o no. Io ho adorato questo concerto, vorrei tornare. Ma secondo volte. Me, guarda, dopo le ultime cose che ha detto, secondo me il senso critico di tutto quello che ha detto adesso non vale più. Cioè, nel senso, non capiremo mai cosa le è veramente piaciuto del concerto. Quindi intristiamoci di questo. Ma no, ma a parte scherzi, cioè, il concerto comunque è stato personalmente un coronare, un sogno, perché comunque non ho mai avuto la possibilità di vedere Pearl Jam dal vivo, e questa cosa mi è sempre dispiaciuta molto, quindi speravo di poterlo fare una volta nella vita e non mi aspettavo che un concerto così, con un one man show senza la band, quindi senza Pearl Jam, potesse darmi tanto, tanta passione, tanta emozione. E invece c'è stata pure la lagrimuccia che è scappata un paio di volte, poi vi racconterò. Non ce l'ho raccontata. E comunque dicevo, proprio Black è la canzone che mi dispiace Cristiano, non ho messo in scaletta, perché ho voluto prenderla come esempio, perché è stato il momento in cui abbiamo sentito tutti l'emozione della dedica di un amico che aveva perso un amico. E quindi noi rispettosamente non ce la mettiamo. Non la mettiamo, ma ascoltiamo proprio Chris Cornell in un pezzo live di Black Hole Sun. The man in this pose, in disguises no one knows, as the face lies the snake and the sun in my disgrace, boiling heat, summer stench, neath the black the sky looks dead. Call my name through the cream and I'll hear you scream again. Black hole sun, won't you wash away the rain, black hole sun, won't you come, won't you come, won't you come. Stuttering, cold and damp, steal the warm wind, tired friend, times are gone for all the spent, sometimes far too long for snakes. Shoes, walking sleep, in my youth I pray to keep heaven. call someone to come. Wash away the rain. Black hole, sun, won't you come? Won't you come? Black hole, sun, won't you come? Wash away the rain. Black hole, sun, won't you come? Won't you come? Black hole sun, won't you come? Wash away the rain. Black hole sun, won't you come? Won't you come? Black hole sun, won't you come? Wash away the rain. Black hole sun, won't you come? Won't you come? Lasciatemi citare questo articolo di Alessandro Bosio su XL di Repubblica per farvi capire l'hype. Io vorrei evitare di parlare di Chris Cornell, ma in virtù della comprensione chiesta inizio articolo, vi prego, lasciatemelo fare. Tanto se avete ancora quei 21 grammi che sono il peso della vostra anima, avrete sentito qualcosa di tutto questo anche voi, perché Eddie ci ha aiutato a dirgli addio. Me ne rendo conto solo adesso, l'ha fatto nominando ai Soundgarden, dichiarando quanto ci pensa, l'ha fatto piangendo e implorando uno straziante comeback sulla conclusione di Black, che mi ha spezzato e fatto crollare a mia volta in un piatto liberatorio di cui non mi vergogno, consolato in un abbraccio pieno d'amore, rassicurato da una mano sulla mia tremante spalla destra. E a costo di sembrare melenso, devo dirlo che la mano era quella di un mio amico, ma per un attimo ho pensato fosse Eddie. Vabbè, capisco, però insomma siamo anche qui un po' di suggestione. È stato un momento veramente intenso, veramente, perché comunque molti di noi a un certo punto si sono sentiti vicini a lui, perché comunque era un concerto molto intimo, e hanno pensato magari a quella persona o quell'amico che hanno perso. Io personalmente l'ho fatto, quindi penso che anche molti abbiano empaticamente capito quello che stava provando Eddie in quel momento. Poi vabbè, c'era un sacco di gente che lo voleva consolare, però lì tipo gente butta di qua in mezzo, ti consoliamo noi, e questa ritorniamo insomma sempre a Giovanna una coscia lunga, perché poi dice... Ma nel frattempo è partito il trivia sulla mia canzone dei Pearl Jam, E fra poco arriva, quindi tra pochissimo. Cioè, nel senso, vogliono sapere qual è la tua canzone preferita dei Pearl Jam. Sì. Chi è che lo vuole sapere? Tutta questa curiosità morbosa. Lo vuole sapere Cristiano. Cristiano, dici la tua intanto, allora, così almeno vediamo se è compatibile o se è affine. Ci dice che Eddie ha il dono dell'ubiquità, perché stava lì e stava con noi, ci abbracciava. Sì, gli metteva la spalla al tizio e poi strusciava. Vabbè. No, vabbè. Veramente io credo che gli sforzi e anche il rischio che ha corso Eddie Vedder nel presentarsi da solo, così, con una voce, una chitarra, un mandolino e un ukulele, siano stati veramente ricompensati. È stato coraggioso, ma è stato anche molto fortunato, perché comunque si è trovato un pubblico pronto ad accoglierlo a braccia aperte. Allora, va bene, dai, facciamo questo, rompiamo questo toto. Ascolto subito dopo Imagine e quindi subito dopo La Stella Cadente. Eddie m'ha fatto regalo. Sembra a fare regali sto Eddie. Sì, m'ha fatto regalo, perché questa è la prima canzone che io ho ascoltato dell'album, sempre Vitalogy, credo, e la prima canzone che mi ha avvicinato in qualche modo a Pearl Jam, e forse è la più, diciamo così, blasonata, però è anche molto intensa e racconta qualcosa forse di me. Watching the clock, it's 4 o'clock. It's got to stop. Tell him, take no more. She practices her speech as he opens the door. She rolls over, pretends to sleep as he looks her over. She lies and says she's in love. She dreams in colors, she dreams in red. Can't find a better man. Can't find a better man. Can't find a better man. Oh. Talk è una serata radiofonica di grandi emozioni, di grandi canzoni che veramente ci di grandi karaoke ci sgocciano. E poi tra l'altro, ecco, come ho detto anche in chat, so veramente sempre costantemente la tentazione di aprire il canale e far sentire quello che succede, perché non è detto che sia una cosa positiva, però insomma, comunque devo dire che rispetto all'ultima puntata di Mono, no di Mono, scusate, di Everything, diciamo questa playlist mi piace molto di più. Grazie. Si vede che sei molto più ispirata dalle emozioni erotiche che hai provato durante questa non concerto, ho provato insomma. Emozioni erotiche dai, abbiamo capito che so emozioni erotiche come con noi quando andavamo a vedere i film porno ancora al cinema Volturno, ricordiamoci, una stazione termine, dove facevano una cosa bellissima, cioè era praticamente lo spettacolino delle negrette che facevano tipo varietà, no? Con le cosce, poi finisce, si apriva il sipario, tutti i giorni. C'è Cristiano che fa domande, tipo, Cristiano, a proposito di grandi emozioni, scusate cosa pensa Michela del concerto che non abbiamo capito niente, quello di Vasco Rossi. Se parli e ridi non si capisce niente, cioè non è una conversazione privata tra te e Cristiano, è una conversazione. Bene, radioascoltatori, dovete sapere che Cristiano Caliendo ha appena chiesto per la 40ª volta che cosa penso del concerto che ho un'altra volta visto. L'ho spiegato io. Cristiano, un giorno ti porterò al Volturno e capirai la stessa cosa. Ma no, Cristiano, ti parto io a vedere Eddie la prossima volta che viene. Vieni con me, ci divertiamo da morire. Bicchierozzi di birra e ovviamente veramente bagnata con l'acqua. Ma io non ce lo vedo Cristiano che andrà a bere la birra, secondo me. No, perché? No, secondo me si ubriaca con la frizzantina già. Con cose, con vabbè, la bicchierozzi di frizzantina, purché fredda perché ai concerti fa caldo e grandi emozioni. Però non hai parlato, per esempio, che ne so, del sistema di sicurezza DEFCON 7, che dimostra quanto poi l'apparati. Sì, sì, è stato validissimo. Diciamo che è stata una gran rottura perché praticamente ci hanno diviso in varie entrate. E vabbè, i miei amici sono andati un po' in panico, e forse anche io, perché la mia entrata era diversa dalla loro. Però una volta dentro ci saremmo tutti rincontrati. E c'erano circa 6 entrate. No, vabbè, è scritto una cosa, Cristiano, che vabbè, poi ne parliamo in un'altra, Big 20, in un'altra puntata sulle negrette e il Volturno. Che vabbè, dice? Poi sta storia dei tappi che non si potevano portare, quindi nascondi i tappi dentro il reggiseno, nascondi i tappi dentro il panino, magna dei tappi, ingoiali e buttali via. Comunque erano molto rigidi, i controlli hanno funzionato benissimo, molto scorrevoli, e l'atmosfera era veramente tranquilla perché comunque la gente si sentiva sicura e si vedeva, e quindi l'organizzazione è andata veramente alla grande. Poi comunque tenere alta l'attenzione e il controllo su un festival durato così tanti giorni era anche complicato, insomma, perché per Firenze era comunque la prima volta, quindi era la prima sfida vinta abbastanza, se non fosse per questa storia dei fuochi d'artificio. Interrompere la musica alle 10 di sera durante il concerto per i fuochi d'artificio è un po' pesante, soprattutto perché è il momento in cui si forma la carta. Poi che riprendo a fare il discorso su Firenze. No, no, grazie. Ci abbiamo già tanti amici. Comunque sì, Danilo, stai tranquillo, la prossima puntata si intitolerà Quando ci sono cresciuti i peli sul pisello, che penso che sono... faremo una puntata triste, una puntata sulla nostra pubertà. Io non ci sarò, che manca anche perché, e dai, non sarà una puntata di Everything. Ma sì, no, perché no. Everything parla anche di queste, cioè se dobbiamo star parlare, tu che vai in Irlanda per andare a vedere una mamma per amica o a vedere Eddie Vedder, che insomma, che il desiderio sessuale, bene, cioè, voglio dire, posso parlare delle negrette e del Volturno, come giustamente dicono qui in chat, insomma. Sì, va bene, allora Fiselli e Vorturno, però io non ci sarò. E... lo faccio con Caliendo. Vabbè, falla con lui. Eccezionalmente sostituisce Michele De Paola alla console. Alla console. E canterà anche lui fuori sì, onda. Sì. Però io spingerò il pulsante in quel caso. E comunque no, veramente grande organizzazione, grande, grande gestione, se non consideriamo il fatto che nel frattempo che i fuochi d'artificio andavano, Eddie Vedder si scolava bottiglie di vino e è arrivato dicendo vaffanculo tu San Giovanni, e a un certo punto ci ha detto ui San Giovanni, quindi anche bestemmiato, rischiato anche di essere bruciato nel rogo dei blasfemi, che schifo di uomo proprio, cioè. Allora, andiamo alla prossima canzone. Andiamo alla prossima canzone. Oppure che c'hai un cosa? All'organizzazione. Ah, pensavo che era un... ah, io pensavo che era un regalo per te. No, no, è un omaggio al festival e al concerto che i miei amici hanno vissuto e io no. L'ultimo Aerovederci, l'ultimo concerto degli Aerosmith, l'ultima tournée e l'ultima data proprio a Firenze. E ascoltiamo la magnifica Dream On. Anche perché ricordate, ragazzi, c'è sempre un'ultima volta per ogni cosa. questa era Dream On degli Aerosmith, che praticamente va a portarci ben oltre, insomma, la boa di mezzo percorso di questa serata che stiamo passando insieme, anche perché io ho la sensazione che ascoltato cantare, tra l'altro, ma c'ho anche la gente è scappata, la sensazione che non c'hai più un cazzo da raccontare, cioè... No, come no ce l'hai. Vado al dunque, vai al dunque, vai, inizia, perché tanto allora siamo... Ma una cosa negativa di Michele Caliendo, tipo Eddie che sputa quando canta o che c'è la mano troppo pelosa, quella sulla spalla tipo di Repubblica, per intenderci, o che tipo ha detto Chris Cornell, i Young rullano, però Vasco sarà sempre il mio preferito, una roba curiosa, trasgressiva, che dia umanità al personaggio cristiano. Eddie è Dio, quindi non è umano, cioè non possiamo dare umanità alla persona che non è umana. Al massimo è umano. Non so se l'avete capita. Non ci fa ride. Mazza, faceva proprio ride, non capite un cazzo. Purtroppo non c'è una cosa che dia umanità. È stato perfetto. Non, cioè, noi ogni volta che parlava lo sentivamo sbiascicare, perché quindi sarà tanto perfetto. Ci sembrava, cioè, ero ubriachissimo. E all'inizio, quando l'abbiamo sentito parlare, abbiamo detto: questo ci rovina tutto il concerto. Questo è un mogaccio. Arriva dei suoi sordi. Niente, neanche una nota e già eravamo tutti persi sotto di lui, sotto, cioè, la pioggia veramente, dorata di stelle, cioè praticamente è di Vedder che vi pisciava addosso a tutti quanti, insomma. No, si è buttato anche nel palco, poi a un certo punto ha dato la chitarra a Glenn Hansard, ha detto: ti suona tu, che io me ne vado un po' in mezzo al pubblico con le bestemmie che volavano dalla security, perché veramente erano incazzati neri. Lui ha preso, si è proprio lanciato nella folla e si è fatto alzare, insomma è stato un momento veramente che io ho detto: perché non ho pagato 20 euro in più, mannaggia la mia tirchiaggine, c'ero anch'io là davanti. Però non l'ho fatto. Ma per fa che? Cioè, ne avresti pagato le conseguenze con contusioni. Voi dovete sapere che mia moglie è capace di farsi venire i lividi solo se guarda la porta. Quindi, sì, ieri sono caduta, ho fatto un macello. E no, vabbè, c'è il microfono, Cristiano, bisogna parlare al microfono. Questa è la regola della radio. Io non canto come una gruppi. Sì. Forse sì, canto come una gruppi durante tutti i brani e quindi non ero concentrata. Diciamo che canti come drupi, quello sicuramente. Come drupi, forse magari, manco come i drupi. Comunque, diciamo che non ho cantato tantissimo, perché ci sono stati momenti in cui veramente eravamo molto assorti nell'ascolto. Poi vabbè, ogni tanto c'era il mio amico Enrico che diceva: ma tu lo sapevi che suonava senza band? E perché non me l'ha detto? Io pensavo che lui lo sapesse, quindi saluto Enrico. So che ci ha preso la sola, però è stato bello essere tutti insieme come a 20 anni. Che cosa piccola e fragile. Ma non la conosco neanche. Che era la canzone quella delle telenovelas? Che ne so. Piccola e fragile, non so. Piccola e fragile. Comunque, veniamo a una parte molto importante di tutto il tour di Eddie. Ed Eddie, l'amico nostro, sempre viene a cena amico a casa tuo. Nostra. Amico tuo, perché io. E è stato molto bravo a scegliere le canzoni. Non ha mai fatto una scaletta uguale all'altra in una decina di concerti del tour europeo, ma soprattutto ha fatto molte cover. Nello specifico, come ho detto, a Firenze ha cantato canzoni di Neil Young, vabbè, quella di Neil Young, Rockin' in a Free World, la canta sempre. Poi ha cantato Comfortably Numb dei Pink Floyd ha fatto una cover di Bruce Springsteen, Son of the Good Hope, insieme a Glenn Hansard, e ha cantato Imagine, come ho già detto. E soprattutto mi ha incuriosito questa cosa, che un paio di concerti dopo, o il concerto dopo quello di Firenze, ha fatto una cover di una canzone degli U2 che io amo moltissimo e che sto cercando di scaricare da qualche parte, perché sono curiosa di sapere come l'ha cantata, ma ancora non l'ho trovata. Quindi nel frattempo ascoltiamo la canzone originale, di cui Eddie ha fatto una cover il 26 giugno a Taormina, e ascoltiamo Bad. If I could throw Grandi, grandi gli U2, sono il gruppo della storia della musica, che alla fine sono tutti uguali. Mi state rovinando una puntata intensa, piena di citazioni musicali. Scusa, noi abbiamo fatto un excursus musicale partendo da Drupi. Andate da MDB Samba Radio a rompe le palle con Scialpi, Gatto Pangeri, Aleandro Baldi, che è importante. Toto Cutugno, Amedeo Minghi. Io qua non vi voglio. Musica. Non ci voglio, state rovinando. Ma comunque io stavo facendo prima di questa ultima sessione, perché poi c'è un brano, andiamo poi ai saluti. Ci sono due brani, uno e poi saluti, sì. L'altro brano. Vabbè, non fa niente, comunque c'è il brano, poi andiamo ai saluti, poi dopo c'è un altro brano. Dicevo che gli U2 sono una parte importante della musica di questo secolo, soprattutto della musica sociale, anche di protesta, anche di denuncia, soprattutto di eventi che oramai sono diventati storia, ma che insomma alcuni hanno vissuto dolorosamente sulla propria pelle. Però gli U2 c'hanno solo un problema, secondo me, che alla fine cazzo sono tutti uguali. No, vabbè, che ma secondo me si dovevano fermare tipo 10 anni fa. Che sono belle le sonorità, perché hanno questo sound molto evocativo, molto in crescendo, bello, però non c'hanno più niente da dire, cioè sono lì e devono in qualche modo raccogliere tutta la storia che hanno fatto e godersela e lasciarcela godere, perché poi se ci dobbiamo ricordare che cantano col parrucchino canzoni di merda, perché fatemelo dire, no, se vogliono godere io li porto al Volturno e c'è sempre insomma la soluzione. Ma non ci verrebbe probabilmente, che poi chissà se esiste ancora il cinema Volturno grande. Sono andato con il mio amico Riccardo Buratti, che saluto, insomma, probabilmente ha capito. Dopo è diventato fervente cattolico. No, cattolico non è mai stato, lui è fervente qualcosa, non sappiamo fervente bene. Fervente, lui si ferve, esatto. Insomma, va bene. Quindi, qual è l'ultima cosa che c'hai da raccontare di sto concerto? Che c'è un po' bello, bello. Mi ha fatto capire che ogni tanto, una volta ogni 8 anni, un bel concerto ci vuole. E quindi, veramente incredibile. Anche l'atmosfera, stare con gli amici, insomma, che non vedi da tanti anni, ritrovarsi comunque ragazzi della stessa età, perché comunque siamo giovincelli, però eravamo tutti più o meno coetanei. Vabbè, questa è l'età dove si va a cercare la giovinezza perduta, è triste sta cosa. No, io non vado a cercare nessuna giovinezza perduta, sono felice. No. In fondo, che c'hai? C'hai un marito che ti permette di fare quello che vuoi, che non ti rompe le palle, che cerca di suggerirti delle strade, di dargli gli indirizzi nella vita, insomma, che sta qui e ti aspetta a casa. Vabbè, cosa vuoi di più? Che sta tristezza! Non lo so. Perché poi se io lo sapessi, mi organizzassi mentre tu andavi da Eddie Vedder, io me ne andavo con Caliendo e Danilo, ce ne andavamo al Volturno. E potevi farlo con le negrette, voglia. Al Volturno c'erano le negrette. No, vabbè, dai, non facciamo questi discorsi da coppia pietosa. Ci divertiamo insieme, da soli, ma comunque ci divertiamo sempre, soprattutto insieme. Poi ogni tanto da soli, perché a te, tu se volevi venire con me da Eddie Vedder, c'era la mia amica che c'aveva il compagno. Ma anche no, andava bene così. Io sono stato felice per te, che eri felice, insomma. Appunto. No, è stato bellissimo. E poi io ho dormito qua, bello, tutto defilata la notte col gatto. Io il gatto e il cuscino. Belli, è stato bello, belli. È stato intenso, è stato bellissimo. Comunque, dopo questa tristezza, io ho scelto una canzone proprio per lasciarti un messaggio. E a chi lo lasci il messaggio? A te. A me? Sì. Mi stai a lasciare un messaggio, fammi vedere. Non ti devi guardare indietro con rabbia. Allora, prima di tutto non ti devi guardare indietro con rabbia, quindi non ricordare questa cosa con rabbia, non ti arrabbiare quando ricordata. Vado fuori con gli amici. Mai ricordato con rabbia, stai facendo un'immagine di me che non esiste, sai perfettamente. No, sei un marito perfetto, eri felicissimo che io andassi via. Ti hai preso un momento di panico, tipo mezz'ora prima che partissi, c'è stato un attimo di crisi, però è passato subito. E no, vabbè, il secondo messaggio è stato... Perché, sai, avendoti visto ieri sera cadere da sola, capisci bene che... C'è sempre ma là ho rischiato da sola, cioè nel senso lo so, però capito. E ci sarebbe Liam Gallagher che esce con l'album, probabilmente farà un concerto a Roma. Ci si potrebbe andare. Ascoltiamo gli Oasis e buttiamoci tutto dietro senza rabbia, che poi è quello che ti ho detto io dopo che sono venuti i ladroni. Giusto. Che ricordiamoci sempre che alla fine le cose succedono. Sì. E non bisogna farsi ossessionare da queste. È giusto, è vero. Certo, poi quando sento tutti questi pezzi live mi ricordano veramente quando, e qui un po' bisogna dire, ha ragione Michela, che è un po' il revival che è dentro di noi, quando andavamo ad ascoltare Mimmo Locasciulli e ci mettevamo sotto e strappavamo i capelli e dicevamo dai Mimmolo, Mimmo Locasciulli che insomma regnava sovrano, e altro che quando gli tiravano il pollo, perché quello non è mica, cioè Richard Benson, Mimmo Locasciulli era uno che ce la sapeva e ha fatto insomma della musica d'autore italiana un lustro, insomma una cosa importante. E non è che suonava nei teatri, lui suonava negli stadi proprio, quindi erano momenti importanti della canzone. Comunque, detto questo, ricordo semplicemente che Runtime Radio durante questo periodo di luglio, queste settimane, saremo praticamente live quasi tutte le sere, quindi invece di andarci nella zampa all'aria a fare splash, a quattro dei bastoni, noi stiamo qua a fare il nostro dovere stoici come sempre. Ricordiamo che infatti domani sera ci saranno i Dos Muchachos con l'ultima puntata di stagione live, Cesare Giraldi e Simone Cusella, e parleranno di videogiochi e di zombie con una puntata che si intitola Cervelli. Quindi non perdetevela domani sera, mi raccomando, ore 21 su Runtime Radio, www.runtimeradio.it. Per quanto riguarda invece Michela De Paola e me, per quanto riguarda appunto Everything, cercheremo di fare un'altra puntata a breve, ma soprattutto se riusciamo e troveremo il sistema, i mezzi tecnici, o troveremo soprattutto delle linee veloci, quando saremo in Germania potremo fare dei live così sortiti. Beh, sì, questo, insieme al buon Carmine. Ci aiuterà Carmine sicuramente, perché noi non siamo in grado. Stavo morendo di starnuto nel frattempo, perché appunto con Carmine e Clelia, che magari insomma potremmo fare, partiremo la volta della foresta nera, che non è come dice la sorella, questa confonde un bosco con la fregna. Vabbè, comunque, detto questo, Michela, allora salutiamo tutti ragazzi, è stato bello tornare e mi mancate sempre e mi riprometto sempre di essere più presente, prima o poi ci avrò il tempo necessario per fare tutto, e ringrazio Cristiano, Carmine, Danilo e tutte le persone che sono intervenute nella chat. E io avevo preparato un brano per dedicarlo. Aspetta, me lo presenti il brano. Ah, okay. Aspetta, scusa. Allora a questo punto vi saluto anche io. Vi ricordo che Everything, scritto con Think, lo trovate su Facebook cercando la pagina. Ovviamente fate mi piace, così seguite eventuali o successivi aggiornamenti. C'è anche la pagina di Runtime Radio, ma soprattutto il gruppo pubblico di Runtime Music, che si racchiudono un po' tutte quante le trasmissioni musicali di Runtime. Come ho detto appunto, il sito nostro ufficiale è www.runtimeradio.it. cercheremo anche di avere una linea telefonica forse nelle prossime occasioni, quindi se qualcuno vuole ci possiamo anche telefonarci, insomma magari partecipare anche in diretta. Ma appunto, come abbiamo detto, la puntata di domani sera dei Dos Muchachos, e poi successivamente ci saranno anche altre dirette, soprattutto questa settimana ce ne saranno due o tre, adesso non ricordo, poi di sera in sera vi diremo, poi faremo un palinsesto preciso e cercheremo di aggiornarvi bene. Detto questo, vi ringrazio appunto e vi saluto. Dato che questa è stata abbastanza calda, ce ne andiamo ad aprire e spalancare tutte quante le finestre, perché siamo stati bravi, siamo stati a chiuderle con la finestra chiusa, a chiuderle prima di andare a dormire. Esatto. se no tornano i ladri. Signor ladro, se vuole può venire tranquillamente. E vi salutiamo chiaramente con un brano finale, che voleva essere una dedica a un'amica che pensavamo che non c'è più, stesse ascoltando, e che per due motivi doveva essere una compagna di concerto, ma non credo che questo concerto lo vedremo, e non credo, insomma vabbè, i ladri ci hanno rubato il budget e non ci siamo organizzate, diciamola così. E quindi Lauren Hill, ciao, non ti vedremo, però prima o poi, insomma, pure un concertino di Lauren Hill ci vuole. E ascoltiamo The Whoop e That Thing. Ciao e alla prossima puntata. Ciao. Mi raccomando, non mancate e continuate a seguire www.lantalmeridio.it. Ciao. the one you let hit it and never called you again. Remember when he told you he was about the Benjamins? Yeah. You act like you ain't him, they give him a little trim to begin. How you think you really gonna pretend? Like you wasn't down and you called him again. Plus when you give it up so easy, you ain't even fooling him. If you did it then, then you probably can. Talking out your neck saying you're a Christian, a Muslim, sleeping with the gin. Now that was the sin that did Jezebel in. Who you gonna tell when the repercussions spin? Showing off your ass cause you thinking it's a trend, girlfriend. Let me break it down for you again. You know I only say it cause I'm truly genuine. Don't be a hard rock when you really are a gin, baby girl. Respect is just the minimum. When you still defending them now, Lauren is only human. Don't think I haven't been through the same predicament. Let it sit inside your head like a million women in Philly pen. It's silly when girls sell their souls because of sin. Look at where you be in. Hair weaves like Europeans, fake nails done by Koreans. Come again. And his Timbs and his women, him and his men. Come in the club like hooligans. Don't care who they offend, Papa Yang. You got yeah. Let's not pretend. The one that pack pissed out by the waist, man. Crissed out by the casement. Still the name of this basement. The pretty face, man. Claiming that they did a bid, man. Need to take care of their 3 and 4 kids. Been the face in court case when the child support's late. Money taking, heartbreaking. Now you wonder why women hate me. And the sneaky silent man. The punk domestic violence man. The quick job I'm gonna stop acting like boys and be men. How you gonna win when you ain't right within? How you gonna win when you ain't right within? How you gonna win?